L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. A me piacciono i mostri, io voglio Borghezio, io voglio tutti i mostri, può fare anche Peppe Fetish, tutti i mostri possibili e immaginabili devono passare da qui. Volete ridere un po'? Volete ridere? Volete mettervi... Volete scompisciarvi dalle risate un po'? Beh, ascoltate quello che ha detto oggi Lupi alla Camera, perché va bene tutto, va bene tutto. Ma raccontarci, però la politica è fatta anche di ipocrisia. Venirci a raccontare che non ha fatto nessuna pressione per fare assumere il figlio, beh, dopo quello che abbiamo letto, dopo la telefonata al grande RAS delle infrastrutture pubbliche in calza, amici miei, sentite... Quanto a mio figlio, ho detto e ribadisco che non ho mai fatto pressioni con chi che sia per procurare un lavoro a mio figlio. Ma non c'è bisogno di fare pressioni a quel livello. Cioè non c'è bisogno che ci sia la pistola fumante di una telefonata che ti dice, beh, assumi mio figlio altrimenti non ti faccio lavorare. Ci mancherebbe pure. Cioè bisogna essere magari coglioni per fare cose di questo tipo. E Lupi tutto è tranne che un coglione. Allora, diciamo la verità, non ci vuole la telefonata. Bastano delle piccole, no? Delle piccole... Basta una frase, sì. Poi l'altra cosa, ma anche questo c'è da morire dalle risate. Fare il ministro richiede sacrifici economici, cioè ci si rimette. Giustamente il fatto che lo vede che io faccio il ministro ti chiede giustamente dei sacrifici, delle attenzioni maggiori, anche dei sacrifici economici dal mio punto di vista. Non puoi più svolgere come è giusto che sia lavori che svolgevi, la legge prevede questo. E poi la frase che già abbiamo commentato ieri, non c'è bisogno di una poltrona per fare politica, ma diciamo che serve. Io credo che forse un mio gesto, che non vuol dire ritirarmi dalla politica, anzi, non c'è bisogno di una poltrona per fare politica, lo si può fare nel Parlamento, nel proprio partito, credo che possa servire a questo, a rafforzare l'azione del governo. E poi ancora altra risata su questo, altra risata. Ho detto a mio figlio di andare da Incalza per capire come va il mondo. Per capire come va il mondo, dai su, ma perché? Perché uno di fronte, questa volta da Vespa, perché come sapete Lupi si è dimesso prima da Vespa e poi in Parlamento. Io parlo con Ercole Incalza e gli dico, mio figlio si è appena laureato, è a Roma a trovarmi, e gli dico, ti faccio parlare con Ercole Incalza, che è uno laureato in ingegneria con 110 lodi, uno dei più grandi esperti, grandi esperti del mondo. Se lei e io, per i nostri figli, conosciamo un grande medico e il figlio si è laureato in medicina, non per chiedergli di assumerlo, ma per dirgli vai a parlare con lui, senti come va il mondo, capisci le cose. Non gli chiedo, scusi, se lei rilegge la frase, io non gli chiedo, cosa che non potrei mai chiedere, dargli delle consulenze, gli dico dagli dei suggerimenti, delle consulenze. Questo è il problema, questo è il problema delle intercettazioni. Vabbè, chissà perché subito dopo, qualche ora dopo, anzi qualche secondo dopo, questo signore Incalza chiama poi alcuni signori che dirigono i lavori di alcune aziende eccetera eccetera, che prendono lavori dal ministero, e il figlio si ritrova quasi per magia, signor Luca Lupi, si ritrova quasi per magia assunto, comunque impiegato a tempo parziale, eccetera, eccetera. Allora, i 5 Stelle, caro Parenzo, i 5 Stelle dicono che Lupi, senti questa follia, perché io divento pazzo. Va bene la politica, va bene l'attacco, eccetera. Dicono che Lupi dovrebbe restare. Lo dice Di Battista, uno di quelli più, no? Uno di quelli che fa parte del direttorio, dei leader dei 5 Stelle. Dico, una follia assoluta. Deve restituire i soldi che ha dato in un anno. Deve restituire i soldi di Lupi degli ultimi mesi. Ma che c'entra? No, cosa c'entra? No, cosa ogni c'entra? Volta che sento un 5 Stelle penso a te, guarda, mi viene una rabbia, mi viene una rabbia, una rabbia. Di Battista. Restituisca al popolo italiano i suoi compensi dell'ultima legislatura. Non morirà di fame per questo, piuttosto si arricchirà di dignità. Potrebbe usare anche il fondo dei noi parlamentari del 5 Stelle che destiniamo i nostri stipendi tagliati. Oh, Ostellino, Piero Ostellino, dice che Renzi è un miserabile. Sentite. Contemporaneamente il ministro non viene né difeso né invitato a dimettersi dal Presidente del Consiglio, il quale fa tutta un'opera sotterranea per indurlo a dimettersi e conquistare il suo ministero. Questo è un caso miserabile di politica all'italiana, miserabile. Pare. Questo governo fa ribrezzo. E magari sul governo che fa ribrezzo sarà d'accordo Roberto Formigoni, ex celeste, oppure non so se bisogna chiamarlo ancora celeste, che è in collegamento con noi, senatore del nuovo centrodestra. Buonasera, buonasera Formigoni. Celeste sempre, buonasera. Come celeste? Come celeste sempre, sempre. Lei è sempre celeste, anche sempre, adesso rimane celeste. Vabbè, però non è più in alto, non è più in alto nei cieli, non è più all'ultimo piano del Pirellone. Resta segnato nella storia che ho costruito io il grattacielo più alto d'Italia. Beh, sì, diciamo che dopo un po' di anni si può dire che se ne poteva fare a meno di quel grattacielo. No, assolutamente, diciamo. No, ribadisco, è stata un'operazione economica. C'è un risparmio, lei dice, un risparmio. La Regione Lombardia da quel momento risparmia 6 milioni di euro l'anno, perché prima li pagava in affitto, adesso ha un grattacielo che tra l'altro è stato nominato come il più bello del mondo. Sì, ma la cosa che mi interessa è che lei continua a considerarsi comunque celeste. Non è che lo continuo a chiamarmi celeste, lei non è che può cambiare il nomignolo che gli amici più affezionati. Lei una grande considerazione di sé, ha sempre avuto una grande considerazione di sé. No, io sento gli altri e come dire, lascio che facciano. Senta un attimo, Formio, ma lei hanno mai regalato le camicie? Le camicie che lei ha, siccome si parla di regali, Rolex, no, le cose a Lupi, eccetera, sono non mi hanno mai regalato. No, Rolex, Rolex. E le camicie gliel'hanno regalate qualche volta? Sì, alcune camicie me le hanno regalate, certo. Degli stilisti, delle persone, no? Sì. No, qualche camicia, sì. Qualche camicia. Le camicie che ho sfoggiato sono dei puri oggetti di stile realizzate dai nostri stilisti. Alcune me ne hanno omaggiate ben volentieri, perché sono uno dei segni della creatività italiana nel mondo. Ah, che cosa? Lei è uno dei segni? Le camicie. La moda milanese, la moda italiana. È nota Durante l'Expo andrebbero esposte, secondo me. Magari le viene questa idea, esporre le mie camicie durante l'Expo. I nostri stilisti faranno dei padiglioni e metteranno lì. Non camicie Formigoni, stupendo. Che me le hanno regalate gli anni precedenti, ma metteranno le ultime creazioni della loro creatività. Allora, però Abbiamo degli stilisti veramente in gamba, per fortuna, perché poi producono pile, esporta la nostra Però scusi Formigoni, io so, adesso lei non me lo dirà mai, me lo negherà, e dirà no, io sono solidale, eccetera. Io sono sicuro, anzi so per certo, che lei sta godendo come un pazzo. Ma neanche per idea. Perché Lupi è stato un po' negli ultimi tempi il suo avversario. Ma con Lupi abbiamo Certo che è stato un avversario. Pensi. No, avversario mai, sta sempre stati amici. Ma un po' sta godendo. Non ci si nascondono gli eventuali punti di dissenso. Abbiamo avuto dei punti di dissenso, ma l'amicizia è una cosa che ci lega da tanti e tanti anni, per cui io sono veramente addolorato per quello che è capitato a Maurizio, ma nello stesso tempo ammirato per il comportamento che ha avuto. Ammirato, perché ha fatto qualche cosa che non gli era richiesto, ha fatto un atto non dovuto. Ma l'ha costretto Renzi, altrimenti c'è la mozione di sfiducia che poteva essere cacciato in Parlamento, scusi, ma che ha fatto qualcosa? Era un atto non dovuto. Sul comportamento di Renzi, se vuole ci dimentichiamo nel descriverlo. Sì, certo, se vuole parliamo del comportamento di Renzi. Ecco, no, questo è interessante. Perché non è stato all'altezza. Non è stato all'altezza, questa è una risposta, una novità da questo punto di vista. Non è stato all'altezza, addirittura prima Ostellino ha detto che ho sentito. Miserabile, il governo fa ribrezzo. Cioè, Ostellino è un giornalista di grandissima vaglia. Luca, ha ragione. Non uso questa parola. Io dico che il comportamento di Renzi è stato tipica espressione del suo doppio pesismo, perché non ha difeso un ministro contro cui la magistratura non aveva nulla e invece dire. Ci sono ancora quattro sottosegretari. Ha difeso i suoi quattro sottosegretari che sono indagati, due dei quali sono rinviati a giudizio. E perché non fanno... bene, Renzi non ha detto una parola sul candidato del Partito Democratico alle elezioni in campagna. Ma su questo voi avete ragione, però dovete andare fino in fondo. Condannato. No, ma sono d'accordo con lei, però andate fino in fondo e chiedete le dimissioni dei quattro sottosegretari. No, è Renzi che deve farlo. Vabbè, ma ho capito. No. Allora, mettiamo le cose a puntino. Noi non siamo vendicativi. Noi siamo al governo per aiutare l'Italia ad uscire dalla crisi. Stiamo ottenendo i primi risultati. E quindi Lupi non ha fatto cadere il governo, noi non abbiamo fatto cadere il governo. Non si tratta di questo. Ma quel ministero a chi va adesso? A chi va quel ministero? Mi lasci terminare la prima frase. Se il Presidente del Consiglio vuole essere all'altezza della responsabilità che si chiede a un Presidente del Consiglio, prenda lui dei provvedimenti nei confronti dei suoi quattro sottosegretari del PD. Dovrebbe farli dimettere. Allora. Ma non c'è dubbio. Bene, allora Formigoni chiede le dimissioni dei quattro sottosegretari del PD. È la dignità di Renzi che dovrebbe fare. No, ma sono d'accordo con lei al 100%. Dovrebbe costringere il candidato secondo la coerenza di Renzi, dovrebbe costringere il candidato del PD in campagna a ritirarsi. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente. Allora, siamo con Roberto Formigoni, senatore del CD. Io sono d'accordo con lui, sentite un po' che cosa incredibile, ma anche Parenzo, credo, sul fatto che il Partito Democratico dovrebbe essere coerente, Renzi in primis dovrebbe essere coerente a far dimettere i quattro sottosegretari indagati. Dunque tutti e tre d'accordo che non va bene per una trasmissione, però insomma, andiamo avanti lo stesso. E anche il De Luca che si dovrebbe ritirare. Allora, io dico una cosa, Formigoni, però sul fatto che lui ha fatto pressioni per il figlio, ma su questo possiamo concordare. Lei, tra l'altro, è uno di quelli che, non avendo famiglia, diciamo, stretta, molti hanno avuto problemi. Molti hanno avuto problemi con la famiglia. Però è curioso, mi scusi, che Luppi, per fare eventualmente assumere suo figlio da una persona che conosceva da 40 anni, perché poi è stato assunto da uno che conosceva da 40 anni, passi attraverso un intermediario. Attraverso Incalza. Non so le cose come sono andate, ma questo è un aspetto. Cioè, dice, è talmente stretta l'amicizia tra Renzi e questo tizio. No, non tra Renzi, tra Luppi. Tra Luppi e questo imprenditore. Poi l'assunto. Si conoscono da 40 anni, le loro famiglie sono amiche. Ma Luppi, se vuole far assumere suo figlio, passa attraverso la mediazione Incalza che ha conosciuto da un anno. Questo mi sembra molto strano. No, però le intercettazioni però non lasciano. Adesso possiamo discutere sulle intercettazioni fino alla morte, però. No, mi scusi, ma guardi, le intercettazioni vengano fuori tutte. Cioè, voglio dire, Luppi è stato poveretto, è stato intercettato. Ma lei ha fatto segnalazioni, mai? Ha fatto raccomandazioni e segnalazioni, sì. Cioè, è normale che un deputato, un senatore faccia raccomandazioni, segnali le persone per lavori, secondo lei, sì? Fa parte di questa attività, non per lavori. Io in genere, guardi, io come lei sa, io ho una fortuna, appartengo a un movimento che è stato molto insultato in questi giorni, ma che è un grande movimento di educazione, che è Comunione e Liberazione, che aveva formato... Grande movimento di potere fa. Pure, di grande potere, e dunque di occupazione... Potere, ma no, ma come nessun, nessun potere? Lasci terminare. Formigoni, che Comunione e Liberazione non abbia nessun potere... E opere sociali. Aveva dato vita anni fa ai centri di solidarietà, che esattamente erano delle iniziative private per trovare dei posti di lavoro, e hanno trovato lavoro a centinaia e centinaia di persone. Quando io avevo qualcuno che mi chiedeva il lavoro, li facevo riferire ai centri di solidarietà di Comunione e Liberazione. Ma è la stessa cosa, è diverso. Ma non sto dicendo che avete commesso reati, sto dicendo fatta attraverso delle iniziative di volontariato. Ma senta, lei di persone legate a CL che hanno trovato, cerca di dargli una mano, o se ne frega o gli volta la schiena. Non deve fare dal centro di collocamento, è una follia, la stessa cosa che ci ha detto. Io li mandavo presso il centro di collocamento, il centro di solidarietà, messo in piedi. Ma scusi, un giovane laureato in ingegneria, d'accordo, ho capito, un giovane laureato in ingegneria non può essere un po' incazzato per il fatto che il figlio di un ministro trova subito un lavoro grazie al padre che chiama in calza, eccetera, eccetera. Io penso che possa essere un po' arrabbiato. Ha diritto di essere incazzato, ma io dubito che sia così, perché torno a ripetere, si conosceva personalmente a 40 anni che non è così. Non è così. Sul fatto che... tant'è vero, mi scusi, torniamo una volta di più a ribadirlo. La magistratura non ha avuto nulla da eccepire. No, vabbè, su questo, sulla la raccomandazione ancora non è un reato. No, ma neanche che lui ha. La magistratura avrebbe potuto accusarlo di uso indebito di un funzionario pubblico. No, invece non ha registrato questo uso indebito. Questo uso indebito non c'è stato. Senti, Parenzo, c'è una cosa che riguarda la Lega. Dato un avviso di garanzia. Ho capito. Oggi c'è una cosa che riguarda la Lega, Parenzo. Cioè, Salvini dice ci sono un sacco di gente dell'NCD che vuole venire da noi. Allora, faccia i nomi, Salvini. L'ho visto anch'io questa allora, però di lei che conosce. Ma lei non è tentato da Salvini? Ma neanche per idea. Ma non c'è nessuno del nuovo centrodestra che sta facendo la fila da Salvini. Beh, Salvini, abbia coraggio, faccia dei nomi, faccia dei casi concreti. È millanteria. Salvini, da un po' di tempo le sta sparando troppo grosse. Quindi chiedetegli anche voi giornalisti le prove. Senta, dice una cosa, NCD sta venendo a me, dite il nome, cognome, data. Ma lei se lo immagina, lei se lo immagina in futuro, non so quale futuro, Formigoni sotto la leadership di Salvini? Mi dica la verità. Mettiamo le cose in con una bella felpa, una bella felpa. Con Salvini io ho collaborato e Salvini ha collaborato con me, perché lui è stato responsabile della Lega. Abbiamo sempre discusso, abbiamo sempre trovato la cosiddetta quadra. Questo Salvini impazzito, schierato all'estrema destra, diventato estremista, mi sembra veramente impazzito. Ma che è sto rumore? Chi è? Parenzo o Formigoni questo rumore? Sento un rumore pazzesco. Come impazzito? Cioè Salvini è impazzito secondo lei? Politicamente sì. Politicamente ha scelto una linea estremista che non lo porterà mai da nessuna parte. A far parte di uno schieramento. Però avete una cosa in comune, poi dobbiamo chiudere. Siamo tifosi milanisti. Allora, a lei chiedo una cosa: Inzaghi va cacciato, sì o no? Una cosa definitiva, lei è frequentatore dello stadio? Inzaghi deve terminare la stagione, però certamente si è rivelato inadeguato, non tutto per demerito suo, ma poveretto. Non va cacciato. Mettere un grande ex giocatore senza esperienza ad allenare una squadra come il Milan è stato un grosso errore della società. Però lei dice errore della società a mettere Inzaghi lì. Lo ha mandato allo sbaraglio, poveretto. Però fatto l'anno scorso con Cedro. Ci vogliono allenatori di esperienza per squadre di grande blasone. Ormai Galliani non regge più la baracca, questa è la realtà. Galliani, Barbara, lo stesso Silvio. Io mi auguro che Silvio, adesso che è stato assolto in maniera sacrosanta, definitivamente il Milan, testa, il Milan solo sulla politica, anche sul Milan. Solo sul Milan, forse le dice. Anche sulla politica e sul Milan. Solo sul Milan. Ma no, sul Milan, anche sulla politica, nel senso che mi sembra che anche Berlusconi cominci a capire che non può legarsi troppo al carro di Salvini. Però alla fine di giugno Inzaghi via. Credo proprio di sì, che ormai il destino si è segnato. Destino segnato. Magari potrebbe tornare alla primavera, non lo so. Perché, magari viene da voi dell'NCD, magari viene con l'NCD. La bandiera del Milan Inzaghi, ma come giocatore, non ancora come allenatore. Tra qualche anno di esperienza potrà tornare da noi. Grazie, a presto. Voi, grazie, ciao. Stai esagerando. È bene che qualcuno te lo dica, nel coro di quasi tra gli ascoltatori ti leccano il culo, non ho capito perché. Ti devi dare una regolata, ti devi comportare da uomo, non da maschio. Ma se io mi do una regolata, è tutto finito qua, in questa trasmissione. Se io mi do una regolata, dai, su ragazzi. Allora, io credo che dovremmo dare, caro Parenzo, ma non lo diamo, il numero di telefono del signor Sposetti, perché sarebbe da distribuire urbi e torbi il numero di telefono del senatore Sposetti, che però, essendo nostro amico e non avendoci dato l'autorizzazione, non possiamo fare questa operazione. Perché non lo possiamo fare, però dopo quello che ha detto ieri sarebbe veramente da farlo. A parte che oggi è uscito fuori che in realtà ha aiutato o ha cercato di trovare un posto di lavoro a un ex deputato del PD e non solamente, o comunque non solo ai poveracci, come ha detto ieri, perché ieri qui da noi ha detto una cosa: se sento qualcuno in difficoltà cerco di aiutarlo. Ora però l'ex deputato del PD, quello che è uscito fuori oggi sui giornali e che noi abbiamo sentito, mi sembra, nel pomeriggio, dopo magari proviamo a richiamarlo perché non ci ha risposto al telefono, non mi sembra uno che viene dal nulla, cioè non mi sembra un poveraccio sulla strada, uno che va alla Caritas, no? Comunque sentiamo Sposetti, vai. Scusa, se a te tu incontri una persona non conosciuta o conosciuta che ha una situazione temporanea di difficoltà, tu cerchi di aiutarlo? E se c'è una situazione di difficoltà, che fai? Ti giri dall'altra parte? Sei uno che ha una difficoltà di una visita medica, di come si istruisce una domanda per avere l'accompagnamento alla ASL. Adesso l'accompagnamento alla ASL non è che sposetti, cioè, questa è la vecchia concezione della politica, per cui uno chiede al politico di turno come fare per la visita medica alla ASL, magari per saltare la fila, eccetera eccetera. Però c'è qui con noi, perché poi scalpita giustamente, perché dice che l'abbiamo invitato a fare, e poi no, un personaggio, io lo tocco, l'ho già toccato, caro Parenzo, è un po' freddino, è un politico, no, non è un po', no, freddino no, però insomma lo vedo in grande forma e la cosa mi rallegra, la cosa, sono contento di vederlo in grande forma, perché si era parlato di lui come praticamente di una persona morta in ospedale, sì, sì. Giusto? Paolo Villaggio, ciao Paolo, come stai? Questo entusiasmo tuo è esagerato, a cosa è dovuto? Di che cosa? Della tua presenza? Sì, no, di che cosa? Questo urlio così un po'... Tu dici che sono un po' troppo esagitato. Esagitato, sono sì. Esagitato, però non mi faccio la cocaina, guarda, te lo posso assicurare, le droghe non le uso. Guarda che è un naso bianco. Un naso un po' bianco. Sì, ma non è grave, No, dici che non è grave. Ma non è grave, Hitler era cocainomane, lo come sai. Hitler è cocainomane? Hitler era un famoso cocainomane. Ma no, ma davvero sei... Era mio compagno di banco, adesso esatto. Sì, no, infatti stai esagerando anche tu su questo. Sì. Questo Sposetti. Sposetti del PD, sì, del PD. Dice che è giusto che un politico raccomandi, segnali persone in difficoltà. Sì, vabbè, insomma. Vabbè. Non... Beh, tu sei stato del PC, mica io, cioè, sì, sì, lo so, no, ma questo Sposini è l'altro. Sposetti, è possibile che l'abbia visto alla Caritas, io, come dici tu? No, la Caritas no, lui direttamente, lui dice di essere la Caritas, perché come la Caritas ha aiutato un sacco di gente, ha cercato... Sì. Vabbè, comunque, adesso torniamo al punto fondamentale, sei vivo e vegeto. In parte. In parte. Che ti è successo? Sei andato in ospedale tu, sei andato ad accompagnare un amico, come ho letto? Accompagnato, ecco. Sono andato ad accompagnare un amico all'ospedale, sì. al massimo ospedale di Gemelli di Roma, che voleva fare un tracciato elettrocardiogramma. E che è successo? Essendo povero, sì. Lui è morto poi. Come è morto? Sì, ha fatto il tracciato e mi ha detto... Cioè tu l'hai portato in ospedale? L'ho portato in ospedale, mi hanno detto lei si accomodi fuori e intanto facciamo un tracciato a questo, sì, signore. Di cui non posso fare il nome perché... Insomma, è morto da poco. È morto da poco, sì. Ma scusa, però Paolo, adesso mi sembra però... Sembra che dica delle bugie. No, ma sembra che dici delle bugie, sì, esatto. Se, diciamo la verità, riveliamo quello che è successo. Ma non ho capito, perché ti danno per morto alle volte? Questo non capisco. Chi è che parla? Parenzo. Parenzo. Ma è vivo, Parenzo? Parenzo è vivo, lui sì, lui è vivo. No, perché mi sembrava di aver sentito che era caduto da un autobus, non so. No. Ma l'ho detto, no. Ma le lingue. È vivo. Fammi sentire la voce, Parenzo. Parla. No, caro Villaggio, volevo capire che io ti voglio bene molto e ti abbraccio forse. Sì, vabbè, adesso. Vabbè, queste sono le cazzate che si dicono. Però c'è la nonnina, ti ricordi la nonnina di Radio Belva, quella nonnina, la vecchia, insomma, no? La vecchia, sì, la vecchia di Radio Belva, sì. No, no, è viva, quella è viva. Alla tua età, ma è viva. Quanti anni ha? Annarella, come la... Successo? No, sì, beh, abbastanza un cesso, sì. Vabbè, dai, ragazzi, abbastanza un cesso, sì. Ma ragazzi, però, mi deludete. Poi prima ho sentito un'altra vecchia che ti ha offeso, non fare il maschio. Sì, un'altra. Chi è questo? Un'altra. È un'altra, un'ascoltatrice. Io cesso però... anche lei, signora. Cesso, sicuramente un cesso. Sì, è incazzata, sì. Come una belva, non la scopa più nessuno. Come non la scopa più nessuno? Sono sicuro, dai. Sei sicuro? Da come ti ha offeso, lui è famoso, no? Oltretutto. Per attività sessuale, sì, dicono, però no, sì. dicono. Sì. Però non c'è il pericolo, sì, che oggi facciano un attentato qui in Italia? No, qui a Radio, qui alla radio, sì. Possibile, sì, quando ci sono io è possibile, sì. Perché? Ma non perché ci sei tu, perché un bel momento gli obiettivi sono mediocri. Ma hai una paura fottuta tu degli attentati, perché sì. Il Papa dice, per esempio, no, che anche Mattarelli si caga sotto. Il Papa te. Come il Papa si caga sotto? Ma ragazzi, ma questi sono iperprotetti, continuano a dire delle cazzate, dicono, cioè... Bisogna non farsi intimorire. Chi? Loro, il Papa, che ha almeno quante persone intorno? Beh, scusate, sì, centinaia di persone. Scusate, faccio delle piccole papere. Sì, perché hai la voce un po' impastata. Beh, ma no, la voce impostata. Una malattia venerea che purtroppo... Come? Cioè? Sì, una malattia venerea contratta non so come, sì, con un rapporto anomalo. Ma non fai più sesso da anni tu, Paolo. Con animali sì, però. Ma no, dai, su, con animali, dai. Lo prometto a tutti. Ma no, ragazzi. Ma che con animali? Oh, che cani, gatti. Ma dai, su, guarda che si arrabbiano gli animalisti, eh. Sono delle belve gli animalisti, quando dici. Cioè, quelli che pensano che gli animali siano come hanno uomini. Dei rapporti con animali, questi animalisti. Ah, quasi certamente. Quasi certamente. Allora, per te gli animali sono come gli uomini o no? Un essere umano è uguale a... uguale a un animale oppure basta con questa parola? No, è peggio di un animale l'uomo, perché ma veramente è adesso parliamo sul serio, veramente stai dicendo? Sto parlando sul serio. Sì. Gli animali non sono consapevoli della loro, sì, della vita addirittura, sì, hanno solo questo, delle loro schifezze, diciamo. No, delle loro schifezze. Hanno un leone che divora, sì, un bambino, sì, di 4 anni, indubbiamente lo fa per fame, non, sì, lo fa per, sì, cattiva. Sì. Qui invece, purtroppo, nella razza umana si è tentati di danneggiare i concorrenti in una cultura... Cioè l'uomo alla fine è consapevolmente peggio di un animale. Molto peggio. Molto peggio di un animale. Non sto esagerando. Sì, sì, sì, no, benissimo, benissimo. Era Paolo Villaggio, vivo e vegeto, ma resta qui, resta qui, sì, vivo, sì, e vegeto. Poi ci racconterà la sua visita in ospedale, però prima fammi ascoltare qualcuno che ci ha chiamato, perché c'è gente interessante qui. Enea da Terni, vai Enea. Ciao carissimo. Dimmi. Allora io volevo parlare del fatto di lupi, che noi, sì, italiani siamo una massa di ipocriti, perché, sì, tutti quanti si danno da fare per trovare posto al figlio in ogni modo, sì, e poi invece facciamo tutti gli scandalizzati quando è il politico di turno che naturalmente... No, ma che ci sia ipocrisia, hanno... Enea, che ci sia ipocrisia... È un'ipocrisia bestiale. Non c'è dubbio, però è una cosa diversa, per carità. Io personalmente odio le raccomandazioni e penso anche che un sacco di italiani le odiano, cioè le odiano come odio me. Cioè io ho detto l'altra volta, mia madre... Se in un posto pubblico, pagato da tutti noi italiani, quello è uno scandalo totale. E quello succede anche a piccoli livelli, il piccolo direttore dell'ASL, chiunque, certo, non i ministri. Quello è uno scandalo che poi paghiamo noi, magari dei somari. No, vabbè, ma quello non c'è nel pubblico. L'università e poi li impiegano dentro i posti pubblici. Ma nel pubblico uno, c'è anche. Naturalmente c'è un figlio che si laurea, c'ha le conoscenze, usi le tue conoscenze per favorirgli un posto in un'impresa privata, che e poi se non c'ha le capacità lo cacciano fuori, perché non è che. No, ma è chiaro che l'impresa privata. Lupi, una volta che non è più un ministro, l'impresa privata, sì, se quello è d'accordo, un asino. Però, ragazzi, qui la situazione è molto chiara adesso. Al di là, di quello che Lupi ha detto alla Camera e della difesa di una persona che sicuramente è stata messa in mezzo e tutte le sofferenze della famiglia che vogliamo. Però la politica è fatta anche di queste cose qui, è un po' sangue e merda. La realtà è una sola. Lupi parla del figlio e di possibili lavori, non esplicitamente di possibili lavori, parla del figlio con dirigenti del ministero e con persone, e il figlio va a lavorare con persone che prendono lavori dal ministero. Ma che ci vuole di più per dimettersi? Certo. Cioè non è che ci vuole, bisogna inventarsi chissà che cosa. Il figlio laureato in ingegneria può lavorare in qualsiasi posto in Italia. L'unico posto dove non deve lavorare e le uniche persone con cui deve avere a che fare sono le persone che dipendono in parte dalle decisioni del padre, non solo del padre ovviamente, perché non è che tutti i lavori li decide Lupi, no, d'imperio, però insomma ci mette del suo. Denis Lecco, vai. Denis, sì, Denis, ciao, Denis, che c'è? Che c'è Paolo, che succede? No, dico, però hai fatto questa cazziata come un uomo che non raccomanda a nessuno. Io so che tu, sì, da giovane venivi chiamato il raccomandatore. Come raccomandatore? Avevi distinto di... Sì, è uno che raccomandava tutto quello che vedeva. Ma Paolo, ma come raccomandavo? Ma lo so io, ma parte che detto. Sono giovane, ho 48 anni, tu ce n'hai 82, 83. 87, ma quando, 88. Quando sei entrato in ospedale l'altro giorno? Perché tu sei per raccomandare uno. No, ma tu eri, c'avevi un qualcosa al cuore, dimmi la verità, dai. No, ti dico la verità. Sei andato là perché... Allora, io ho un tumore. Ma dai, su. Vabbè, allora ragazzi, allora, si comanda, però, lui, no, decide lui, no, sa tutto. Però Paolo, allora, d'accordo, non questo lo so. Disgraziato di Lupi ha raccomandato naturalmente il figlio. Perché? Perché? Perché è un istinto naturale. I padri in Italia da sempre raccomandano. Lo assolvi, lo assolvi. Sto vomitando. No. Sta vomitando per quello che ma dice. Ma non lo assolvo, lo capisco fino in fondo. Oh, bene. Io non ho fatto che raccomandare tutti figli, cugini, parenti lontani, telefono a Dio da fare. Dove le raccomandavi? Dovunque. Dovunque, nel cinema, nella televisione. Se incontro un vigile a Roma, sì, dico, mi raccomandi, mi raccomando, non mi fate la multa. Vabbè, ma quella che c'è. Ma come ti comincia di lì? Allora ragazzi, oggi il Presidente del Consiglio, Renzi, ha detto che siccome loro sono garantisti non basta l'avviso di garanzia. Ora io resto di un'opinione, di queste cose complicate, di questi intorcinamenti, di questi ragionamenti barocchi, gli italiani non capiscono niente. Gli italiani capiscono solo una cosa, secondo me, anche la gente che ci sta ascoltando, il popolo dei taxi, il popolo dei camion, il popolo delle persone che sono collegate da casa e magari stanno facendo anche all'amore, perché c'è gente che sente la zanzara e intanto sta con la propria compagna e si accompagna, e insomma, no, hanno un rapporto. Questo ci hanno raccontato qualche volta. Insomma, la gente della radio che ci sta ascoltando non capisce questi ragionamenti contorti. Sa che Lupi si è dimesso per un motivo politico senza essere indagato, perché pare abbia aiutato il figlio è stato messo in mezzo. Sa anche che ci sono 4 indagati nel governo del Partito Democratico, indagati ufficialmente, e per me non si devono dimettere, ma secondo quello che ha sempre detto Renzi si dovrebbero dimettere. E c'è anche un candidato del Partito Democratico alla regione Campania che si chiama De Luca, il quale è condannato in primo grado. Allora Renzi dice oggi: noi siamo garantisti, non basta un avviso di garanzia. Noi siamo davvero garantisti e io ho messo più volte tutto il mio impegno per sottolineare che non può bastare un avviso di garanzia per chiedere le dimissioni di qualcuno. Questo è vero a maggior ragione in un caso come questo, in cui neanche c'era l'avviso di garanzia. Ma vogliamo ricordare come massacrò la Cancellieri, non raggiunta da un avviso di garanzia, sulla vicenda della telefonata ai Ligresti? Tutto vero che c'è un ministro, il ministro della giustizia, che anche secondo me si deve dimettere. Oggi il ministro Cancellieri ha perduto quel prestigio e quell'autorevolezza che le rimangono dal punto di vista personale, ma che per la funzione che deve svolgere non ha più. Penso che lei abbia dato scritto una brutta pagina in cui si è dato l'idea che la legge non è uguale per tutti. Se il ministro Cancellieri avesse capito che questo era il momento di dare un segnale e di fare un passo indietro, sarebbe stato meglio. Del Censis riceve in parte soldi pubblici, non è solo lo Stato, però riceve finanziamenti pubblici. Il Censis gli sono andate a rompere le scatole dopo la vicenda Lupi e ha detto: basta, ho già spiegato tutta la zanzara. Fece un'intervista con noi pazzesca in cui rivendicò il fatto che poteva mettere il figlio come suo successore a direttore generale del Censis. Ve lo ricordate, De Rita? Sì, la faccia come il C, secondo me. Poi, per carità, Parenzo diceva per esempio che De Rita, siccome non era lo Stato, ma riceveva in parte finanziamenti pubblici. È un'azienda privata. Vabbè, comunque, sentiamo cosa ha detto sulla vicenda Lupi. Commesse dallo Stato. Sì, vabbè, ma è uguale, ragazzi, se ricevi soldi dallo Stato non puoi mettere il figlio come direttore generale. Su, ma possibile che non si capiscono delle cose così elementari? Vai, che è completamente diverso. Dai. Secondo lei per fare carriera in questo paese bisogna essere figli di... Io non capisco di lei, chi glielo fa fare? È il mio lavoro. No, perché lo fa proprio con una cattiveria, con una voglia di rompere le scatole, o la pagano, ma questo non credo. Proprio lo fa con un gusto che non c'è. È una voglia, io ho spiegato a Zanzaro, l'ho spiegato per iscritto. E lei continua, ritorna, tranquillo. Ma perché uno poi se la deve prendere quello che va a fare una domanda? Quello va a fare una domanda e rispondi, no? Che bisogno c'è di dire no, manco la pagano? Che programma era? Non mi sono pure scordato. E per chiudere, prima di tornare col mitologico villaggio, Eva Grimaldi, ti ricordi chi è Eva Grimaldi? Come no? Te la ricordi bene? Sì. Qual è la caratteristica di Eva Grimaldi? Mi ha detto che tu, che hai avuto dei rapporti sessuali con te, con la Grimaldi? Sì. No, però ancora lei. No, con un transessuale non sono stato. Sei trans? No, lo so, sono transessuale. Ma perché sei così incazzato? Possibile? No, fingi? No. Mi ha detto la Grimaldi che tu purtroppo hai delle dimensioni microscopiche. Sì. E quindi... E beh, poveraccio, anche quello nasi grazia è un fatto ereditario, non c'è? No, bravo Paolo. Come ereditario? Sì, è un fatto genetico, indubbiamente. Ma non è un fatto genetico, chi l'ha detto? Cioè, l'ha detto la Grimaldi, ha no. detto in un pomeriggio. Vabbè, c'era comunque, gente che no, no, lo dico. Ha detto che io ce l'ho così. No, ha detto qual è l'uomo che aveva delle dimensioni Cruciani. No, Chi? Scusa. Come ti chiami? Cruciani. Ma figurati, no, ma che piacere, vedi la tartitale. Cruciani, sono il buon, una carogna sto Cruciani, perché la sua trasmissione è caratterizzata dal fatto che lui parla male di tutti, e non è così. Forse lui è un po' risentito per queste dimensioni. Dice, per questo che sono così incazzato. Eh beh, non c'è, dice, altro motivo. Dice, se uno ha il pisello così piccolo, se una, no, roba così, adesso lui fa. Ho allargato un po'. Adesso, alla radio non si vede, però sto facendo un po' la misura minima dei centimetri. Ragazzi, io non l'ho mai visto. Qualcuno ha detto che la misura media è 13 centimetri. 13. No, naturalmente. Chi te l'ha detto? Tu hai avuto esperti, esperti dicono che la misura dimmi media. Dimmi il nome di questo esperto. Ma tu quando facevi attività. Voglio sesso, farmi misurare io. Quanto ce l'hai adesso? Adesso, vabbè, adesso sei mai fuori, ormai sei cancellato tutto. No, no, no, niente, un buco, una cosa impressionante. Mamma mia. Ma, vabbè, mamma mia, adesso proprio tu parli. Vabbè, okay, mi fa orrore. Che poveraccio, che è famoso. Vabbè, Eva Grimaldi e Dolce Gabbana, sentiamo. Come oggi sono morti Dolce Gabbana, cominciamo a bruciare qualcosa di loro. Un occhiale, un profumo, una mutanda. Ragazzi, ma questa qua vuole bruciare la roba di Dolce & Gabbana semplicemente perché Dolce & Gabbana hanno espresso un'idea sulla famiglia tradizionale. Ma è una follia, dai, su, una follia. Stefano, Roma, vai. Stefano. Ma com'è vestito Villaggio, scusa? No, Villaggio è vestito con una camicia nera. No, mi racconto io. Raccontati tu. Mi racconto io. Raccontati tu. Innanzitutto, io da ragazzino venivo chiamato in classe il cesso. Questa è una cosa. Vabbè, certo, il non più eri brutto. No, no, il più brutto. Non sei mai stato bello, diciamo. Mai, assolutamente. Un cesso pazzesco. Ma no, anche cattivo, piccolo, mediocre. E poi. E poi come sono vestito? Cerco di mascherare purtroppo una disgrazia fondamentale. E qual è? La mancanza assoluta di organi genitali. E quella roba lì, sei piatto. Ma hai avuto da quanto questo qua? Perché i figli ce l'hai avuti, insomma, no? Magari. Beh, come no, dai, adesso. No, no, ho avuto un aiuto esterno molto. Ah, hai fatto l'insieme all'epoca quella. Cioè, non io, no, no. Tua moglie no, è stata inseminata, dici, da altri. No, assolutamente. No, non ve lo dico perché è una cattiveria. È una cattiveria. E quindi tu, lui tu fingi di essere cattivo, però. Ma come fingo? Ma perché non, altrimenti sarebbe monotono questo essere cattivo. Mai, non fingo mai, non fingo mai. È noioso lui, non poi alla mai. Fin fine. Stefano sempre. Da Roma, vai, fammi sentire Stefano, poi torno. Buonasera. Su. Vai, vai. Buonasera, sono in linea? Sì, fino a prova contraria sì, Stefano. Sì, cioè, se lei parla male, con me, scusi, io poi non ho capito questa domanda ogni tanto che arriva, no? Cioè uno chiama, parla con me al telefono, sono in linea, ma come sì, deve si sentiva, ma con chi è quel l'ufo? Sotto perché divento vabbè, pazzo io. Per essere brevi, volevo dire che io sono a 4 esami dalla fine della laurea magistrale in ingegneria. Oh, ma lei è un giovane straordinario, perché dicono che in questa trasmissione non ci sono i giovani, ma è pieno di giovani che io incontro ogni giorno nelle strade italiane, 20 anni, io. 21, 22, 25, 26, 27, che sono pazzi della zanzara e che ascoltano vero questa trasmissione, giovani, verissimo, giovani, giovani. Verissimo. Vero. E volevo dire, aspetta, in risposta a quanto detto dall'onorevole Formigoni, sì, che io sono letteralmente incazzato come una bestia. Perché? Perché per questo modo di fare e questo modo di voler giustificare, come diceva anche l'ascoltatore di prima Enea, questo diciamo voler raccomandare, volersi per forza sprecare per inserire qualcuno, ha portato il nostro paese allo sfracello, perché poi abbiamo dei veri somari nelle dirigenze che contano, a capo delle aziende che contano, e ci ritroviamo questi risultati. Inoltre vorrei dire, ma lei, Stefano, lei ha perfettamente ragione, col suo linguaggio, come dire, un po' basico, però ma sincero e spontaneo. Sì, lei senza belli sulla lingua. No, ma lei, adesso non esageriamo, ci ha fatto capire una cosa, cioè che quando uno dice, quando un politico o qualcun altro dice, però è normale fare delle segnalazioni, anch'io ho segnalato di qui, ho segnalato da là, ci sono persone discriminate, persone che non hanno queste possibilità e che magari si fanno un mazzo così per certo, presentare un curriculum certo dove lavorava il figlio di Lupi, e persone che invece basta una telefonata del direttore dei lavori o del RAS dei lavori pubblici per ottenere un minimo di posto di lavoro. Certo, non è che ha ottenuto un posto di lavoro a 5.000 euro, però certo, non ce l'hanno tutti queste possibilità. Ora è normale che questo avvenga, esiste in certo tutto il mondo, però quando però sei ministro aggiungere e si scopre una cosa del genere non ti devi inventare chissà che per dimetterti, no? Amici miei, siamo al flop. Allora, tocco Paolo Villaggio, lo tocco perché sai, eccolo qua, lo tocco. Sì, anche perché tu no, ma non sei vero, non sei freddo, sei caldo. Dunque sei vivo, sì, sei vivo. Dunque, abbiamo con noi oggi in studio Paolo Villaggio, vivo e vegeto, dice la balla colossale che ha accompagnato un amico in ospedale. Ma scusa, perché la notizia si è subito diffusa che tu eri in ospedale. Posso farti una domanda fondamentale? Dimmi. Ma tu perché sei così incazzato? Ma non sono incazzato, il mio modo di fare sono naturale. Io ho parlato prima con i tuoi collaboratori. Sì, dimmi. È un nido di vipere. Dicono che tu fingi tutto. Sono un bluff colossale. Ma non un bluff colossale, non dico questo. Cioè, è tutta una cosa inventata, questa cosa che io sono spontaneo, eccetera. Non è vero niente. Ma quello nessuno è spontaneo. Dai. Nessuno è spontaneo. Dimmi uno spontaneo. Beh sì, ma io lo so. Dimmene uno. Io non lo so, bisogna conoscere le persone bene. Però guarda, ti ho toccato, sei caldo. Hai raccontato una balla colossale, ma sei caldo. Dunque sei vivo, il fatto che tu racconti le balle significa che sei ancora in grande forma. Ma perché si diffondono subito le notizie quando uno va in ospedale? Te lo spiego, parola, perché tu insomma non hai fatto una grande carriera nella vita, per questo per questo è così risentito. Ma l'ha detto quello prima, lì con la barba. Prima era che c'avevo il pisello piccolo, adesso ma no, quella è una buttata, dai. Allora quando tu sei, perché tu non sei molto riconosciuto, hai capito, se tu andassi in ospedale ti portano o all'obitorio oppure ti aspetti lista d'attesa. Entro io, me l'ha detto quello con la barba, quello vedi? Dietro il vetro, nido di vipere, sì. Vabbè. Allora quando entro io, i portieri degli ospedali delle sì, cliniche, pronto soccorso eccetera, soprattutto pronto soccorso sono degli informatori dell'ANSA. Vedono passare, metti caso, uno malandato come non farmi dire. No, chi? Villaggio. No, ecco, come villaggio. La prima cosa che fanno, telefono alla Lanza e dico: guarda che c'è Villaggio. Ma si fanno pagare questi qua? Guarda che è una cosa che consiglio anche a te, che con la radio non è che... Beh, insomma, qualche soldino lo guadagni. Beh, 500 euro. Insomma, informazione ogni volta. Informazione. Cioè i portantini, là, quelli degli uscieri degli ospedali, vedono una persona, chiamano l'ANSA, 500 euro. No, i portieri. È la verità, ma purtroppo. Ma tu come sei arrivato, in ambulanza o con le tue gambe? Io ho perso una gamba. Ha perso, sì, claudicante. L'ho visto arrivare claudicante. Sì. Come mai? Questo? Che c'hai? Che cammini poco? Cammini non te male. Lo dico. Dai, cammini male. Cammino male perché ho perso l'uso delle gambe. Comunque, guarda, sei ancora. Una fattura. Sei ancora in forma strepitosa. Ma come ti piacerebbe morire? Toccati un po', innanzitutto, perché ho detto parola morire, però vabbè. Volgarità tipica. Ci penso, io sono sicuro, adesso siamo seri, ci penso ogni tanto, perché per forza uno ci pensa. Penso solo a quello. Alla morte. Tu sei ancora giovane, sembri molto giovane, in forma, eccetera. Mediocre, naturalmente. Molto mediocre, sì. Vabbè, lo dico per gioco, lo capisci. Sì, certo. Però io temo soprattutto di morire. Avendo 82 anni e mezzo, sì, credimi, è una specie di incubo. E non c'è nessun tipo di fede nella quale ti puoi rifugiare. Dice, io però sono stato un buon cattolico, un onanista, non so, scusa. Quello che è. E nonostante tutto non credo nell'aldilà, perché quella è la più grande truffa della storia. Cioè l'aldilà è una cagata pazzesca. Non come la corazzata Potionkin. Peggio della corazzata Potionkin. Scherzi, la corazzata Potionkin. Cioè la religione, per esempio, è una cagata pazzesca. Tu no, così, una cagata una truffa pazzesca. Colossale. Eh sì, tutte le religioni sono delle truffe colossali. Perché tu credi nella No, no, io sono come te. Assolutamente, su questo sono come te. Posso dirti una cosa stupefacente? Cosa? Sai com'è l'universo concepito ormai dagli astrofisici? Non è il Sistema Solare, non è la galassia. È formato da miliardi! Calma. Questo è lo so. Miliardi? No, bene. Di galassie. Da miliardi di galassie. Che si allontanano l'un dall'altra. Questa è Margherita Hack, quella. È morta anche lei. No, però una bella donna abbastanza. Beh, insomma, adesso si sì, forse. Tu hai avuto dei rapporti. No, era. Sì, me l'hanno detto. Sempre le vipere lì. Ma come ti piacerebbe morire? C'hai un pensiero dato? Come ti piacerebbe? Dimmi. Ecco, te lo dico subito. Meteorite. Con un meteorite che ti... No, con un meteorite che fa fuori tutti. Beh, ma come col meteorite? Vedersi tutti, per esempio, l'ora del meteorite, ritorna radio alle 15:40. Villaggio? Chi è che parla? Parenzo, sempre, Parenzo. Sì. Ma è vivo Parenzo? Sì, è vivo. Detto che era... Ma il suicidio non ci pensi mai, no? Mai, nel modo più assoluto, è inconcepibile... Bisogna essere... Ti aggrappi a ogni forma di vita, a ogni momento di vita. Ti vedo, ti aggrappi a ogni momento di vita. Ma tu sei stato... detto. Questa potrebbe essere l'ultima volta che ti vedo, però. Ma lei ha paura del califfo o no, signor? Cosa ha detto? Il califfo ti mette paura, l'ISIS ti mette paura. Ragazzi, è una cosa terrorizzante. E veramente mi stanno sulle scatole quelli che osano dire resisteremo, non ci facciamo intemorire. Loro, i politici, quelli ricchi, il Papa... Il Papa ha detto di essere anche contro l'ergastolo oggi. Ha detto, vabbè, ma allora comincia a sbarellare. Ma certo. A te non ti piace sto Papa Francesco? Fisicamente no. Sai cos'è che non mi piace di lui? Il fatto che è molto astuto, ha costruito subito un'immagine di un Papa popolare. È bravo, sì. È furbissimo. Ha rifiutato la croce d'oro, sì, e ne ha presa una d'argento. Dimmi tu, è furbissimo. Dai. È furbissimo. Ha le scarpe ancora vecchie, argentine, quelle di riconosco. Sì, sì. Gira con una borsetta nera. Lui, come una volta riportava un'importantina. Sì, invece adesso sembra un poveraccio. Sembra un poveraccio, ma non lo è, è molto furbo. E cioè, ci sta fregando tutti, diciamo la verità. Ma no, tutti no, ma insomma, lui bacia almeno 40 bambini all'ora. Come? È un baciatore di bambini, è impressionante. Hai visto come bacia i bambini, sì. Ma no, come bacia i bambini. Ormai lui, perché questi bambini li lavano male, oltretutto lì. Come li lavano male? Puzzano come... Ma dove, in generale? Me l'hanno detto. Sono insopportabile. Senti, faccio le ultime due domande, dai, poi ti lascio. Senti, dove? Mi lasci dove? Ti lascio andare a casa. Lo so che ti diverti. Dove vai, Paolo? No, ragazzi, abbiate pietà. Come questo mi ha convocato fin qua. Mi ha fatto un'ora di taxi, una rottura di coglioni terribile. E dice, ti lascio andare a casa. Mi sta mandando via. Cioè lui finge di essere... No, dice di non andare via. Gli dicono di non andare via. Ma è più facile che tu campi fino a 100 anni o che la Sampdoria vinca lo scudetto con Ferrero? Purtroppo nessuna delle due. No, perché la Juve è raccomandata, ovviamente. Come è raccomandata? Sì, i tifosi della Roma dicono che la Juve è avuto dei primi. Vabbè, lo so, ma insomma bisogna stare molto attenti. Senti una cosa, ma Toscani ha detto da noi una cosa pazzesca: i veneti sono tutti ubriaconi, se lo sono, l'hanno fatto nero. Il fotografo ha detto che i veneti hanno nel DNA, nel sangue, l'ubriachezza, l'alcol. È successo un pandemonio pazzesco. Tu sei specializzato in questi vizi regionali, no? Sì, allora, purtroppo... I veneti che sono ubriaconi? Questo... No, c'è la tendenza, gli anziani, però purtroppo adesso devo dirti che se giri per Roma... Cioè, ha ragione Toscani quando dice che l'alcol è connaturato al DNA di un veneto, cioè sono... Ma vabbè, sì, in un certo senso, ma voglio dirti che anche tu sei stato un alcolizzato. No, io bevo pochissimo, Ragazzi, bevo molto poco. Allora andiamo a Lecco, Denis. Vai Denis. Sì, ciao. Ciao, dimmi. Niente, volevo dire a Villaggio di stare attento perché con due paraculi come voi due sì, è facile metterlo nel sacco. Ma allora, ha detto che non ho capito? No, ha detto che devi stare attento perché con due paraculi come noi è facile che... Ma quello è più furbo. No, scusa, chi è questo che parla? È un signore che è intervenuto, quella è la radio. Sì. Allora, stia a sentire, le voglio rivelare una cosa. Sì. Che lui, come ti chiami? Giuseppe. No, cognome... Cruciani. Sì. È un finto aggressivo. È un bravo uomo, poi. I veri cattivi, i veri sparlatori, sì, i cattivi... Come la vipera lì dietro sì, il regista, l'alcolista, pure alcolizzato, sì. Parlano solo bene di tutti, hanno delle voci. Questo è vero? È vero, cioè questo il vero cattivo non si fa scoprire subito come lui. Sì. Lui finge di essere cattivo perché in fondo lui è un bravo uomo. Questo però devo fare una confessione. La confessione è questa: a proposito di raccomandazioni, mi sono ricordato di una cosa. Forse non è il caso che la racconti, ma la racconto lo stesso. Racconta. In realtà, io una raccomandazione l'ho ricevuta. Perché mi vanto sempre, io non faccio mai le raccomandazioni, sì, non certo, sono mai stato raccomandato. In realtà, quando facevo il militare, a un certo punto, la buonanima di mio padre, deceduto qualche anno fa, all'epoca in grande forma... Che tu hai ucciso, mi hanno detto. No, come ho ucciso io? No, vabbè, ma come lui, ho ucciso... sempre il regista, mi ha detto... Ma come ho ucciso non mio padre? Ha detto, non nomini il padre perché so che lui... L'ha ucciso. Sì, me l'ha detto quello con la barba, ma io non credo. Vabbè, ragazzi. No, questo... mi raccomandò. Sì. Mi raccomandò. Si sentiva un po' in colpa per una serie di cose, forse. Sì. Perché no, il rinvio del servizio militare l'avevo fatto, doveva farlo, insomma, un casino. E che doveva farlo lui, non lo fece, eccetera. Mi raccomandò per fare una parte del mio militare, non tutto a Roma, ma mi raccomandò in un modo strano, cioè mi raccomandò, fece, tentò con un capitano dell'esercito e alla fine io mi ritrovai al distretto militare di Roma dopo un po'. E questo perché lo racconti? Non lo racconto perché poi alla fine tutto il mondo è paese, chi se ne frega, cioè va bene. Sì, dico anche tu raccomandato. No, anch'io sono stato in parte raccomandato nella mia vita per fare una parte del militare a Roma, capito? Sì. Questo lo voglio raccontare. Perché racconti questa storia? Ma chi ti interessa perché la racconti? Ma no, una storia proprio banale, inutile. Serve dire sta cazzata adesso? Non lo so. No, lo dico perché ormai invecchiando io... ho la tentazione di dire sempre solo la verità. No, alle volte la gente non ci crede. Tutti abituati a dire cazzate sulla gente. Quando uno cerca di difendere qualcuno dicendo la verità, non viene creduto. Pensano che io quando parlo bene di una persona sto scherzando. Beh sì, ma c'è il sospetto però. Sentiamo Dennis. Dennis da lì. Chi è Dennis? Dennis è un ascoltatore. Ah. Dimmi Dennis, vai. Niente, volevo raccontare, cioè, mi sembra un po' assurdo all'italiana stare lì a parlare del figlio di tutti. Sapendo che Luppi, facendo parte di CL, di Comune Liberazione, sono un gruppo che gestisce miliardi di fatturato all'anno. Sì. Ma non c'è niente di male, cioè non è che sono dei delinquenti, non è un'associazione a delinquere come qualcuno vuole dire. Certo, è un'associazione che ha grande potere, cioè un gruppo che ha grandissimo potere in Italia, questo non si può negare. Prima Formigoni ha detto no, che potere, ma quale potere? Come Liberazione, gliel'ho detto, è uno dei centri di potere principali in Italia, soprattutto in alcune parti del paese. Ma no, uno negarlo è la cosa ridicola, è negarlo. Che poi il potere significhi necessariamente corruzione, no. Però non si può negare che CL è un centro di potere pazzesco in Italia, dai, su. Molti politici sono di CL, in molti posti nevralgici di istituzioni controllate anche pubbliche da uomini di CL ci sono persone di CL, eccetera eccetera. Qualcuno dice è una piovra pazzesca distribuita in tutto il paese di occupazione di posti di lavoro. Io non credo che sia così, però insomma che le persone di CL assumono in alcuni posti gente di CL non è che lo racconto io, è pieno di gente che io conosco personalmente, amici che sono in certi posti solo esclusivamente, che magari sono bravi solo esclusivamente perché hanno un contatto, fanno parte, non dico della stessa setta, ma insomma dello stesso giro, o no? Sì, faccio un esempio, no? Il signor Luppi qui in Brianza, provincia di Lecco, due settimane prima di Fukushima organizzava dei meeting per gestire il business nucleare. Io lavoravo nel settore delle energie rinnovabili e ti garantisco che questi signori qua hanno messo il bastone tra le ruote nel settore in mille modi. E cosa fanno? Invitano, organizzano, fanno i loro convegni e si spartiscono la torta. Faccio un altro esempio, parlando di Formigoni. Ha costruito eccezionale palazzo in cristallo, però ha costruito anche un aeroporto abusivo senza avere le licenze per costruirlo. Cioè, questi qui si mangiano tutta la Lombardia. Poi sappiamo anche tante volte che fanno affari con gente poco pulita per avere dei particolari. Ho capito, Dennis, grazie. Andiamo a Bergamo, Aziz da Bergamo, caro Paolo. È oggi co-conduttore della Zanzara, Aziz da Bergamo. Sì, signor... ma Aziz che è un ragazzo molto... No, Aziz è sarà un extracomunitario sicuramente. Ah, sì. Arabo. Buonasera. Voglio dire che tu però hai un atteggiamento diverso dagli altri conduttori. Tu sei un terrorista. Come sono un terrorista? Sì, hai un atteggiamento che può far paura, perché incazzato come fingi naturalmente di essere, perché non puoi vivere così. Sei pericolosissimo, perché ci sono degli ebeti come devo ripetere quello là dietro, sì, quello come, allora come sempre regista, regista dietro che credono realmente, ma come ci credono? Sì, diventano dei terroristi anche loro, questi, cioè istigo alla violenza, stai dicendo sei un terrorista radiofonico, è una verità. Tagliamo sto pezzettino, vi prego, non è voluto, tagliamo questo pezzettino. Aziz, vai. Aziz, salve, buonasera. Dimmi, adesso ti faccio ti dimostro che è vero, però sì. in parte è vero, non così come lo dici tu con cattiveria tremenda, perché tu sei cattivo, sei cinico, non mi conosci, no, una cattività non puoi essere cinico e cattivo. a una certa età il suolo ti caghi addosso, come hai detto tu, di avere poco terreno davanti. Quando io leggo... Ma tu te la fai addosso poi anche veramente ogni tanto o no? O hai bisogno, cioè, te la fai addosso o no? Adesso, siamo così, proprio raccontiamoci le cose come stanno. Te la fai a cacca addosso o no? La cacca, dici. La piscia, la cacca addosso, te la fai o no? C'hai bisogno di qualcuno che ti sorregge o no? Che ti aiuta in questo caso? Ogni tanto il letto diventa un lago o no? Beh, adesso vedi perché devi dire questa stronzata. Ma non è una stronzata, stiamo dicendo le cose. Io mi faccio la pipì addosso quando non ho una ragazza adeguata che mi aiuta. E la cacca? Un fabbro. No, dai. Un maniaco. Ogni tanto te la fai addosso o no? No, vabbè, quello è buono, quello, fino a là non ci siamo arrivati. Ogni tanto la pipì sì, quando non c'è qualcuno che... No, adesso me la sto facendo. Come te la stai facendo? Ma stai bagnando tutto, ma sei impazzito? Ma no, non ma è vero. Ma questo è solo 24 ore. Devo chiamare qualcuno, poi c'è una puzza tremenda. No, è impazzito. Sì, c'è già. Ma sentiamo Aziz. No, la puzza non la sento. Ma chi è Aziz? Questa... Ma è un ascoltatore. Che si chiama Aziz? Ma Aziz. È arabo? È arabo, sì, penso di sì. Quindi che terrorista, dici mezzo? Ma no, terrorista, però magari. Magari che? Quanti anni ha Aziz? Conduce 40, la trasmissione, incredibile. 40 anni, signor Aziz. Mandatelo a letto, non è più connesso. Chi? Paolo Villaggio. Ma come non è più connesso? Ti sta insultando, sta dicendo che non sei più connesso. Cosa vuol dire connesso? Aspetta, lasciamo, perché non è più connesso, Aziz? Scusa, sei più connesso tu allora? No, scherzo, ho fatto solo la battuta. Ma vai, dimmi, dai, Aziz, dimmi. Niente, volevo dire che il signor Lupi ha fatto ciò che fa qualsiasi lupo per mantenere il suo figlio. Non vedo dove lo scandalo. Poi l'altra cosa, queste intercettazioni non vanno bene per visto che non è indagato. A cosa servono? Perché sono stati pubblicati? Abbiamo l'arabo garantista, no? Ma io sono d'accordo in parte sulla pubblicazione. Si può discutere, sì, ragazzi, però basta discutere di queste cose della pubblicazione. Parenzo. Cioè, saluta Parenzo, ovviamente qui non è che siamo a radio. Sei un grande. Ciao, allora, fratello. Fermi tutti, ho ricevuto nella giornata di oggi la solita cassetta, parlo come Berlusconi, la cassetta, ancora per Berlusconi non sa che c'è stata un'evoluzione, non c'è più la cassetta, con una telefonata, la telefonata che ha fatto Nichi Vendola a Gino Paoli. Nichi Vendola chiama Gino Paoli, capito? Paolo, capito la cosa? No, non ho capito, ma comunque... Nichi Vendola ha chiamato Gino Paoli. Chi è di Nichi Vendola? Nichi Vendola è quello del governatore della Puglia, omosessuale. Famoso. Omosessuale. Anche tu sei omosessuale? No, io non sono omosessuale, però non c'è niente di male. Vedi, però, scusami, quando io dico omosessuale, loro vanno in brodo di giuggiole, perché c'è qualcosa in te che non gli piace, perché loro sono delle vipere naturali. Quelle dietro il vetro sono tremende, si vede, no? Guarda come ridono. La ricevuta, la telefonata di Vendola a Gino Paoli. Sì. Pronto? Gino Paoli? Chi parla? È la segreteria del presidente Nichi Vendola, buon pomeriggio. Ho il presidente Vendola in linea, posso passarglielo? Certo. Grazie mille, buon pomeriggio. Sì, pronto? Gino, buonasera. Ti disturbo? Buonasera. No, tutto bene. Come? Dico tutto bene. Mi permetto di chiamarti perché io sono proprio per un impegno casualmente a Milano nel weekend e così mi farebbe piacere poterti venire ad ascoltare. Va bene. Se vuoi ti do il numero del mio assistente che ti procura un posto. Cioè... Magari, ti ringrazio. Magari poi ti passo la segretaria. Io mi sono permesso di chiamarti anche e soprattutto... per esprimerti la mia solidarietà. Ti ringrazio. Ho visto questa cosa delle Iene e la trovo una barbarie, veramente disgustosa. Mi dispiace. Credo che esista solo un paese al mondo dove devi dimostrare di essere innocente, invece che lo Stato dimostri di essere che tu sia colpevole. Voglio dire, l'unico posto è dove tu sei colpevole finché non dimostri di essere innocente. Invece ti condannano già sui giornali, eccetera. Vabbè, cioè, è così. Sì, questa storia dei soldi in Svizzera è molto sgradevole, è brutta, mi dispiace. Ma non è una storia che si sgonfierà perché è tutto più o meno regolare, quindi non è che ci sia niente che possa essere impugnato contro di me, non è quello che sembra, in poche parole. Ma io ne sono convinto, però vedo che i giornali ci marciano sopra. I giornali ci marciano sopra su qualsiasi cosa, cioè questo ormai è un popolo di odiatori, loro fanno accontentano soltanto. Sì, sì, lo so. Io posso soltanto continuare a fare il mio mestiere e abbandonare tutto il resto, perché mi interessa, tutto sommato quello che mi interessa è il mio mestiere. Quindi il mio mestiere sono quello che sono e non sono quello che dicono i giornali. Quindi io ti ripasso la segretaria e ricordati che siamo tutti con te contro questi vigliacchi dei giornali che sparano a zero e non sanno neppure di quello che parlano. Non lo sanno mai, non scrivono fatti, scrivono opinioni loro, punto e basta. E l'opinione è sempre negativa. Che poi anche i giornali che dovrebbero essere amici, figurati. Perché credi di avere degli amici, sai cosa mi diceva mio nonno? Cosa? lo diceva anche suo nonno probabilmente. Dai nemici, dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. Esatto, esattamente. Gino, ti ringrazio e ti passo la mia segretaria. La segreteria. D'accordo, grazie. Un abbraccio e a presto. Sei grande. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, io non capisco una cosa, no, caro Parenzo, perché uno, per carità, è al centro di un'inchiesta, pensa di essere innocente, di non avere portato i soldi in Svizzera, o comunque di avere tutto in regola, più o meno, ha detto, poi se la deve prendere con gli italiani come popolo di odiatori. Ma siccome tutto siamo tranne con popolo di odiatori, cioè... ma perché gli si è scatenata una gazzarra pazzesca. Ma è una gazzarra, è Gino Paoli, simbolo dell'Italia, moralista, quello che bacchetta tutti, ex deputato del Partito Comunista, lui... che è sospettato di avere portato dei soldi svizzeri illegalmente, sì, c'è un'indagine, la gente è interessata, le Iene vanno a rompere i coglioni, non mi sembra una cosa così strana, cosa che ha detto le Iene vaffanculo, cioè uno deve avere anche un minimo di... No, devi vivere nel mondo della realtà, il mondo della realtà è che se tu sei... Dimmi. No, perché si è sputtanato una cosa come questa, evidentemente, ma... come hai ricordato la sua carriera, lo sputtana. Allora, ragazzi, la notorietà comporta oneri e onori. Se tu sei una persona famosa, conosciuta... È stato male Villaggio, sta male Villaggio. No, Villaggio sta qua. Ma Gino Paoli è accusato di aver portato i soldi in Svizzera. Sì, vabbè, voglio dire, ma tutti l'hanno fatto, no? Come tutti l'hanno fatto? In Italia moltissimi, così tutti. Lui è caduto in una trappola, aveva... Anche in questo caso, sì, anche in questo caso è caduto in una trappola, si è fidato di questi commercialisti. Ah, perché i commercialisti sono tutti stronzi, sì. Ma insomma sono ladri, sono ladri. Ma sì, dai, adesso non farmi parlare male, perché... No, parliamo male. Ma no, voglio dire che Gino Paoli comunque sarà ricordato per sempre in Italia come un grande autore di canzoni. Le canzoni più belle non sono quelle di Modugno Volare, eccetera. Sì. Cioè, bellissima. Sì, Modugno. Per carità. Però... Tu sei anche cantante. Però. No, per carità. Vagamente la faccia. Allora... Vabbè, voglio dirti che Gino Paoli ha assicurato tutto il suo futuro. Sarà ricordato sempre come un genio della musica. E non come un evasore fiscale. Ma anche il tuo amico De André, scusa. Che cosa? No, ma che c'entra De André adesso? Dice anche Villaggio ha scritto le canzoni per De André. Villaggio ha scritto le canzoni per Fabrizio De André. Ma una canzone, non esagerare. Vabbè, insomma, non ti scoccia. Che canta sta canzone? Ha detto Parenzo, canta sta canzone canta di De André. Canzone di De André. Carlo Martello. Com'è che fa? Re Carlo tornava dalla guerra. Chi è che canta di nuovo? Parenzo, dai. Ah, mai sentito, sì, vabbè. Comportatevi bene. A proposito, adesso mi ha fatto venire in mente una cosa. Sai che Capanna? Era tuo amico Capanna? Ah, Capanna, com'è? Amico tuo Capanna, Mario Capanna? No, sinceramente è un uomo che non mi piace. Come non ti piace? Ma sì, adesso fisicamente, non dico da quel punto di vista, il comportamento a quei tempi era... Insomma, fingeva di essere un uomo... Di sinistra. Di estrema sinistra, cazzo, eppure non l'è stato. Ma lui ha fatto lo sport. Vabbè, lasciamo perdere. Non fammi... perché, ma seriamente, perché non ti piace Capanna? Perché ha tradito ma le sue. Ha fatto lo sport. No, non ha tradito niente, perché erano degli imbroglioni, dai. Erano degli imbroglioni. Ma sai adesso che lui cosa fa? Erano degli imbroglioni, cioè avevano degli ideali e poi. No, sai cosa facevano? Eh? Ma chi è quello lì? Che non lasciamo perdere, dai. Ma non è vero, ha fatto lo spot. Ti vedo incazzato. Dice che hai fatto lo spot per Capanna, dice. Sì, come no, lo spot. Chi è questa che parla? Parenzo, questa, sì. Ah, scusa, perché ha la voce ogni tanto c'è qualche cosa così. Ho fatto lo spot per Capanna che mi ha coinvolto in Democrazia Proletaria. Sì, lo ricordo, sì. Te lo ricordi? Sì. Io avevo preso... Sì. Direi più voti di quelli di Democrazia Proletaria, diciamo. Molto di più, sì. Molto di più. Molto di più, perché io usavo la televisione, io sono simpatico. Ma che cos'è allora Capanna? Uno che predica bene e razzola male, cos'è? Sì, bravo, l'hai detto tu. L'ho detto io, no, però l'hai detto tu. No, l'hai detto tu, però è quello. Cioè uno degli ideali non gliene frega. Predica bene e razzola. Degli ideali non gliene frega niente. Beh, questo non te lo posso dire, sì, però sai che cosa? E adesso è al centro di una polemica perché non vuole rinunciare al 10% del suo vitalizio. Capanna prende un vitalizio come parlamentare, e vabbè, ma che te frega, non vuole rinunciare al 10% e uno si incazza, capito? Perché dice uno non si incazza, no, la gente è incazzata, come... ma lui finge di essere buono, dai, te lo dico, sì, è così, cioè, dici. Ma no, perché sai cosa hanno fatto? Perché è finto Capanna? Perché uno finto? È finto perché sono naturalmente finti tutti gli arrivisti come te. Tu, per esempio, non sei del tutto cattivo. Fingi di essere cattivo perché facendo cattivo ha fatto carriera. E vedi, quanti anni ha lei? Un signore, sta parlando con un signore dietro vetro. Ma sì, ma dimostra un'età. Va bene, Francesco dalla provincia di Foggia. Dai, Francesco. Francesco, pronto, vai. Sono io. Dimmi. Sì, sì. Dottor Cruciani. Sì, dimmi. Oh, finalmente, dopo anni riesco a parlarle. Vai, dimmi, vai. Ma senta un attimo, ma non si stanca mai lei di parlare di froci, di ricchioni, di pederasti? Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Oddio, se l'è fatta sotto, se l'è fatta sotto, no? Chi? Tu, te la sei fatta sotto? No. Ancora no, te la sei fatta sotto. Ma dire, vedo la gocciolina con qua. Con questo tono ha retto, lui crede che dai, io su. Vada a casa. Non mi mandate via ancora stai bastonato. Qua, basta. No, fino io dormo qui, mangio qualcosa, avete qualcosa da mangiare? Ma non ci abbiamo niente. No, ma non importa, mandi uno giù a comprare. Ma perché non te ne vuoi andare? Non ne possiamo perché più. Perché non so dove andare. Non ne passiamo più, non ne possiamo. Tu non ne puoi hai più. Hai rotto le scatole. Ma non è te vero. Te sei pure fatto addosso. Ma non è vero, ma vedi? Sì, ma c'è una specie di acquitrino qua sotto. Poi, più che altro. Ma dai, su. Sì, è una attività così finta, stupida, eccetera. Fammi sentire. Con un uomo molto aggressivo può essere per esempio l'alcolista. Chi è lui? Sì. Ah, quello là di fronte, ride, là, eccetera. Dietro... Lui sì che è un represso, ti odio. La gente alla radio non sa che c'è un vetro con un signore dietro che fa la regia. Non importa, però glielo spiego io. Io sono in una saletta con lui. Sì. Che si lava in maniera... Mi lavo poco, questo è vero, non mi faccio la doccia ogni giorno, questo, ma questo nemmeno tu. È vero. Pure tu puzzi come una bestia, diciamo lo la verità. So. Quante volte ti lavi tu? Mai. Ma no, qualche volta ti lavi, una volta a settimana ti lavi? No. No, nemmeno una volta a settimana. No, perché in questo momento non ne puoi. Ho voglia. No, ogni 10 giorni la doccia, quante volte la fai la doccia? Prima ne facevo 4 al giorno. E adesso una ogni 10 giorni. Adesso non ho più la doccia adeguata, non entro più, sono come quel signore lì un po' corposo. Un po' corposo, ho cambiato come casa, se fossi magro tu. E sono andato. Io sono normale. Normale. Hai cambiato casa e sei andato? Sono andato in un posto che sconsiglio nel modo più assoluto, dove ci sono delle docce nelle quali quel signore lì, che io non so come si chiama, dietro è Carlo, non entra. Sì. Carlo, sì, non entra. Non entro. Perché è troppo grosso, dici. No, perché ha fatto delle docce questo truffatore, ha truffato quei disgraziati. La doccia è fondamentale ormai. Allora, Francesco dalla provincia di Foggia, di cosa ci stava parlando? Non ho capito. Sono obbligato, non li conosci qui. Vai, Francesco, dove stai andando? Scusa. Sì, sono io, pronto? Sì, ma che sei, un camionista? No, sono peggio di un camionista. Cioè? Senta un attimo, poco fa parlavate, lei è il signor, fra parentesi, Paolo Villaggio. Sì. Parlavate di Papa Francesco. Sì. Ma allora... quando l'avete scoperto che è un furbacchione? Scusa. Non so, avete... Ne ha parlato Villaggio e dice che è un furbacchione. E allora? No, l'hai detto tu anche. No, l'hai detto tu, io. No, l'ha detto anche io. L'ha detto, è vero, sì, l'ho detto anch'io. Allora? Ma ne avete prova che quello è un furbacchione? Vabbè, ma è un giudizio su quello che dice il Papa e su come appare il Papa, non è che bisogna, non è che ci vuole portare ma in tribunale per questo. Giuste per voi chi sono? Ma che le persone giuste, ma che c'entra le persone giuste o sbagliate? Stavamo parlando del Papa o è vietato parlare del Papa? Non ho capito. No, non è vietato, ma a un certo punto dice un furbacchione, le scarpe, la borsa. Ma cosa vero, preferite? Però. Preferite? Preferiamo? Piede nudo, papà piede nudo. Vabbè, arrivederci. Paolo da Novara, vai Paolo. Ciao Giuseppe. Vai, un dimmi. Un piccolo intervento sulle raccomandazioni. Qua sì. Si sta demonizzando il concetto di raccomandazioni senza tenere in considerazione il fatto che le raccomandazioni, se fatte in maniera anglosassone, quindi se io metto la faccia perché una persona vale, come avviene nei più grandi istituti accademici, perché una persona è di valore, non è necessariamente un concetto così negativo. Ma in Italia non c'è tutto questo che lei sta immaginando. Purtroppo c'è in Italia anche... è così. Ma, no, ma in Italia c'è un'altra cosa, che è una cosa che si chiama clientelismo, e spesso clientelismo familiare. Esatto, questa è la cosa terribile. Esatto. Clientelismo familiare. Ma vogliamo parlare dell'università, con tutti i baroni che ci stanno, con tutti i figli di che no, ci stanno. Ma ovunque. Infatti io ragazzi, la ma anche nel giornalismo, basta guardare alcuni telegiornali e guardare i cognomi che ci sono in alcuni telegiornali, basta guardare i cognomi che ci sono in alcuni giornali, ma anche lì funge la stessa cosa. Certo, poi è diverso, aziende private, aziende pubbliche, quello che vogliamo, ma il clientelismo familiare è una roba che è stato il cancro, il male dell'Italia, il male dell'Italia. Vai. Allora ragazzi, non posso non chiudere la settimana ricordando che e non l'ho ancora rimandato in onda, che quando sono stati ospiti qui da noi i Cazzo, perché si chiamano così, è un gruppo musicale, non mi guardare così Paolo. Non ti guardo. No, mi guardi male, i Cazzo. È un gruppo musicale giovanile che si chiama Cazzo, scritto Cuzzo. Beh, abbiamo provato a fare una cosa incredibile, chiamare Emilio Fede, cioè i Cazzo, che sono degli ammiratori degli interventi di Fede alla Zanzara, hanno provato a chiamare Fede con un numero da qui, dalla diretta. Sentite come ha risposto Fede. Sconosciuto, ecco, dimmi sconosciuto. Pronto, signor Emilio? Signor Emilio, che grazie. Senta, aspetta, volevamo farle una domanda. Possibile? Una domanda. Insomma, in tutta questa storia, l'unico che è rimasto fregato a quanto pare è lei. Conferma? Ma io mi sono, come si dice, incappettato tua madre, non l'ho detto a nessuno, capito? Io la vedo tua madre, va a ore, credi di ridurre i prezzi dei confini. Poi abbiamo provato a richiamarlo perché Fede risponde così, cioè c'è un sacco di gente che ha il suo numero, ripeto per l'ennesima volta, lo chiama e lui risponde così, cioè se la piglia sempre con le madri delle persone che lo chiamano un po', per, in questo caso però non c'era nessuno che voleva chiamarlo per offenderlo. Secondo tentativo con i Cazzo che chiamano Fede, per straordinario anche il gioco di parole. Vai fuori dai coglioni che c'ho da fare. Aspetti un attimino soltanto, volevo dirle una cosa. Allora, siccome io sono il cantante dei Cazzo e prima di suonare un concerto mi carico sempre con la sua voce, quindi volevo sapere se, perché in tutta questa storia lei è l'unico rimasto fregato. Segreteria telefonica della Zanzara in arrivo, eh? Adesso vi do anche il numero, vai, segreteria telefonica. Meglio un figlio frocio e checca che un radical chic di merda come Parenzo. Ferrara si fa le pippe perché non se lo scopa nessuno. Ciccione! Davide Giuseppe, non è che per caso entrambi siete omosessuali? Ciao malvissuti, la Zanzara è meglio dell'MDMA. Oh ragazzi, fino a quando non si prende atto che il frocismo è una deviazione, quindi una malattia, è qui che bisogna attivare un accanimento terapeutico, bisogna curarli questi qua. Ciao Fulattoni! Avere un figlio gay è veramente una grandissima sfiga, se poi è gay e pure rom, siamo al top ragazzi, lì siamo al top. Ma mi spiegate come mai Bianconi c'ha la stessa voce del divino Telma? Vabbè dai, va. E togliete un po' di sta cazzo di pubblicità, date un affanculo. Agruscia, meglio proprio che il laziale. Allora. Allora, c'è Barbara da Brescia. Barbara da Brescia, vai Barbara, intanto non se n'è andato, Non se n'è andato. E rimango qui, rimane qui, una cosa incredibile. C'è gente disperata dietro il vetro. Disperata, Barbara. Ma no, perché allora, ciao Cruciani, ciao Faenzo, buonasera al signor Villaggio. Allora, due cose. Per quanto riguarda i gay, io sono felice di avere amicizie gay, anche lesbiche. Vabbè, perché sono persone fantastiche e sono stupa di sentire questo accanimento contro di loro. Per quanto riguarda le raccomandazioni, se una persona è valida di suo, penso che trovi il lavoro senza l'aiuto di nessuno. Poi? E per quanto riguarda il signor Villaggio, gli faccio i complimenti, perché mio marito è un accanito proprio, come si dice? Vabbè, come tanti italiani, sì. Allora? Sì, e quindi niente, da quando c'è il signor Villaggio con questo fantozzo e la merdaccia, mio marito mi ha sempre chiamato così. Cioè, mai non volta ho capito, lei è stata chiamata dal marito merdaccia? A lungo? Per un po', quando vedi magari che, mi viene vedi vicino... Che responsabilità. Sì, no, ma tu secondo me odi, tu secondo me odi Fantozzi, secondo me un po'. Improvvisazione, no, sai che un po' lo odi Fantozzi, il personaggio. No, sai che a parte quello, signora, non abbiamo parlato male degli omosessuali veramente. No, no, non lei no, ci ha riproverato. No, ma non noi, qualcuno parla male degli omosessuali. Ah, sì, ma sì. Tutti in Italia, dai. Sì, dici? Ma gli italiani dico, odiano i gay, dici? Ma non odiano, non odiano, non li sopportano, non li accettano, non capiscono che è una deviazione non scelta da loro. Ma è una deviazione, sì, tu dici? Una deviazione. Un purtroppo, po'. Indubbiamente. Tu, per esempio, che sei in parte omosessuale, quando hai capito in parte di avere delle preferenze strane? Quando ero al militare vedevo i piselli sotto la doccia. Ma che piselli, quelli sono una cazzata. Tu hai avuto rapporti con animali? No, ma tu sei fissato con questi rapporti con gli animali? Ma perché? Sì, perché sinceramente è l'unica strada possibile ormai. No, è l'unica strada possibile. Ho avuto molti amici famosi, sì, di cui, sì, non posso fare i nomi, che hanno avuto rapporti con pecore. Con pecore? Sì, in Sardegna. Ma perché c'è questa cosa ancora che i sardi vanno con le pecore? Ma no, quella è una patanata. Adesso con le pecore io penso che ci andrà quel signore anziano che è andato via. Ah, quello che è andato via prima. Sì, senti, scusa una cosa, tu hai detto che Mattarella assomiglia a Fantozzi, perché? Non l'ho detto io. No, come no? No, ho detto che è un po' noioso. Un po' noioso, sì, un po' pesante. Ma non dico pesante, un po' noioso, non è scintillante. Pertini era veramente un deficiente, no? Come un deficiente, Pertini. Beh, sì, insomma, diciamoci la verità, era un po' tipo, un po' strano. Era amato dagli italiani perché faceva delle gaffe clamorose. Sì, perché... è saltato per aria quando ha segnato Tardelli. Sì, come no, certo. È stata la sua fortuna. Allora, abbiamo però, a proposito di animali, in collegamento l'assessore provinciale alla caccia e pesca di Treviso. Io non so ancora se esiste la provincia di Treviso in realtà. Comunque, assessore provinciale alla caccia e pesca di Treviso. No, che no, si esiste. Esiste ancora la provincia? Non hanno cancellato, Lorenzon? No, dovevano cancellarle tutte, però non le hanno cancellate. Mirko Lorenzon. Eccoci, buonasera. Allora, buonasera a lei e tutti i radioascoltatori. Allora, Lorenzon, lei è vero o no? Poi parleremo pure del fatto che lei pare che abbia sparato contro i ladri, no? O sbaglio? Sì. Ma sì, quando sì, è successo questo? Ma è lunedì sera, insomma, verso le 11:30, vicino alla mezzanotte, adesso non mi ricordo neanche l'ora precisa. Ma dove ha sparato? In alto o ha sparato addosso ai ladri? No, io ho sparato in alto, loro hanno sparato verso di me, dopodiché io per scopo di intimorirli ho sparato in alto, insomma. Aspetta, questi che hanno fatto? Sono scappati? Eh sì, sono scappati lì, non sono rimasti di certo, insomma. E dunque, sparare è corretto, giusto? Cioè in alcuni casi. Lei ma considererebbe... no, guardi, sparare secondo me è la cosa più sbagliata. Ma prima hanno sparato loro. È logico che uno per difendersi e fare paura ai ladri, insomma, reagisse. Cioè è giusto armarsi, secondo lei? Ma se uno è consapevole che ha una pistola e sa usarla, sì. Se vabbè, quello sai, lo puoi capire quando ce l'hai, non è che lo puoi scoprire. Ma che roba è un assessore che spara? Cioè, ma una roba. Beh, scusa, ma perché lei può sparare? Perché lei ha un'arma in casa? Ma ce ne sono tantissime, ci sono milioni di persone che sono armate, non sono solo io che sono armato. Tanti acquistano un'arma. Tanti acquistano gli abiti in aperta campagna, sono in abitazione molto isolata. Tanti acquistano l'arma a scopo di difesa, insomma, personale o uso abitativa. Cioè lei l'ha comprata o l'ha comprata l'arma, sarà ormai 30 anni che c'ho l'arma. 30 anni. Tutto regolare, però, porto d'armi e tutto, tutto regolare, porto d'armi e tutto. Beh, ci mancherebbe pure. Scusi, Lorenzo, però il punto non è questo. Lei ha sparato in aria, vabbè, insomma. Perché, Lorenzo, qual è il problema che uno è... ha sparato in aria? Non voglio dire, ormai qui si sta facendo passare questa Ma cosa, se uno ha un'arma in casa da 30 anni, arrivano i ladri, spara... Cioè, ragazzi, io avevo messo un super allarme, ad esempio, no? Uno in casa. Ma l'allarme. Sì, ma scusa, posso intervenire? Ha sparato in aria, sinceramente, perché era spaventato, ha visto un ladro. E poi perché lei vive in campagna ed è povero. Ha mai visto l'avvocato Agnelli girare con una rivoltella in cintura? No? Guardi, il Papa ma nemmeno... con la rivoltella. Ma nemmeno signori, i voglio dire, i ricchi rivoltella. Non hanno bisogno di rivoltelle. I poveri, ma purtroppo, in Italia hanno bisogno anche di una rivoltella che ti dà sicurezza. Ti dà sicurezza. Solo dà... quello. Quale ragione? Ragione. Ma certo che gli do ragione, poverino. Anche quel benzinaro. Stacchio. Benzinaio. Sì, benzinaro alla romana, sì. Benzinaio, stacchio. Sì. Benzinaio, ha ammazzato uno. Ha fatto bene, secondo ma te? Ma no, ha fatto bene, poveraccio. Dico... Era un rom, quelle signori rom. Se ti entra in casa, tu hai la rivoltella adesso. No, a casa non ce l'ho. No, non qui alla radio, no, sì. Non ce... Alla faccia di uno che ha la rivoltella, perché lui è uno veramente che è pericoloso. È troppo incazzato. Bisognerebbe prima di vendere una rivoltella a uno incazzato come lui, domandare perché lei vuole questa rivoltella. Vabbè, questo sai, le domande non portano vabbè, a nulla. Le domande io però sì. Però spiegami una cosa, ha fatto bene quel benzinaio a sparare al rom là? Ma non ha fatto bene, è stato messo in condizione di difendersi, di sparare, altrimenti non... E dei rom che pensi, dei signori rom? Mio padre era un rom. Ma non è vero. Vabbè, sbaro. No, sei... lo faccio per allora, convincere però, aspetta, lui l'alcolizzato. Questo signore Lorenzon, Mirko Lorenzon, che è assessore provinciale caccia e pesca di Treviso, pare che abbia mangiato la nutria. Prima aveva detto che è giusto mangiarle perché è meglio mangiarle piuttosto che tenerle in vita perché rovinano il terreno, eccetera, eccetera. Ma scusami. Aspetta, però fammi dire, fammi capire. Ma non Lorenzon... cosa sono le nutrie? Le nutrie sono quei topastri enormi. Ah, topi. Una specie di topi giganti. Non sono topi, sono roditori, sono assimilabili. L'ha mangiata la carne di nutria o no? Ma io l'ho mangiata lunedì sera, l'ho mangiata, era buonissima. Guarda che la carne di nutria la mangiano in diversi paesi europei, tipo la Francia, Germania, quasi tutti i paesi dell'est, la mangia tutta l'America. Quindi è un animale che è nominato castorino, qui da noi è chiamata nutria, così è dispregiativo sì. Come nome, da loro la chiamano castorino oppure la chiamano coniglio di palude. È buonissima, mangia solo erbe, quindi è una vegetariana. La carne è bianca, lei la consiglia, buona, la consiglia. Ottima. Sì, ma scusa, posso ma intervenire? Aspetta, signore. Aspetta, via, ma che c'hai stasera? Sì. Ma no, voglio dire. Ma no, ma lei mangia le nutrie perché, voglio dire, vive in una situazione abbastanza difficile, forse. Perché c'è ha mai sentito dire che l'avvocato Agnelli ritorna. Ma quello è morto. Mangia... Vabbè, che l'avvocato Agnelli si nutriva di topi. Nel modo più assoluto. No, ma la nutria, guarda che non è un topo, la nutria. No, ha ragione. È un roditore, però. È un roditore. È un roditore. E la mangiano in tutte le parti del mondo, la mangiano. È che qui da noi è stata inserita una specie alloctona non conosciuta, è stata equiparata, c'è una specie di uno parte prevenuto, insomma. È come mangiare le rane. Magari, ma comunque, scusi, oppure l'anguilla che è simile a serpente, una signora ma non gli piace l'anguilla, no, come serpente, o le lumache. Quant'è che mangiano le lumache? Scusi, posso intervenire un attimo? No, no, voglio intervenire, voglio dire, lei ha mai gustato, dico, mangiato carne umana? No, no, perché è prevenuto, umana, no. Perché si sente... Ma perché? Va bene, non sono mica cannibale io. Ma ragazzi, ma non avete idea cos'è la carne umana? Tutta l'antichità si è nutrita di carne umana. Vabbè, ho capito, ma sono casi estremi. Vabbè, Lorenzo, io voglio capire una cosa. Questa nutria, dunque, è meglio mangiarle piuttosto che tenerle in vita, diciamo la verità. Ma no, non è questione di mangiarle. Cioè, vanno fatte fuori le nutrie comunque vanno abbattute perché creano un sacco di danni sul discorso del rischio idraulico. Fanno buche dappertutto sugli argini e sanno benissimo. Guardi che adesso gli animalisti le fanno un mazzo così, lo sa lei, no? Lo so, però bisogna, guardi, le nutrie vanno abbattute, sono migliaia di nutrie che vengono abbattute tutti gli anni in tutte le province d'Italia perché stanno distruggendo il nostro territorio per rischio idrogeologico, insomma, e la tenuta degli argini. Prima viene comunque, come carne la consiglia? Ma come carne è buonissima, comunque la mangiano in tanti in giro. So ma che io ho fatto, questa provocazione e ho ricevuto tantissimi inviti di gente che fanno cene a base di nutri. Logico che non fanno pubblicità, però c'è tanta gente che la mangia senza nessun problema. Ma com'è il gusto? Com'è? Il pollo. Gusto è come mangiare il pollo, stessa roba. Ma un pollo non certo di allevamento. Forse, ma guardi che sì, forse è meglio la nutria così, che vive fuori e mangia erba, con tutte le schifezze che mangiamo dalla grande distribuzione, che sono pure di allevamento, e punturate e basta, piene di antibiotici, e piene di coloranti e conservanti, e poi la gente sta male. Cioè la nutria meglio di tanti alimenti che ci sono adesso, capito? Ah, Madonna, sì, lo so, ma che pubblicità chiedere, ho visto. La può chiedere a qualsiasi... Fanno anche dei carotelli, no, sulla nutria? A qualsiasi veterinario, perché è un animale che vive lo stato brado fuori all'aperto e mangia le cose sane, mangia erba, aspetti mangia che la sento meno, la sento lontano, Lorenzo, non ho capito, sì. Allora... Che no, dicevo? È un animale che vive allo stato all'aperto, mangia. No, ma non si mette col viva voce, se no non si sente. Vabbè. No, la viva voce. Sono... Adesso si sente, dunque? Adesso mi sente. Cioè, è un animale che si nutre naturalmente solo di cose vegetali, quindi di erbe di alghe. Quindi le carni hanno colesterolo zero, perché lo hanno detto anche i veterinari, chi segue questo dal punto di vista legale e sanitario, la nutria si può mangiare. E per quanto riguarda, quindi, ha pochissimi grassi, ha un contenuto elevatissimo di proteine e colesterolo zero, meglio di tanti altri carni che magari arrivano a... Ma si può mangiare? Ma non è un roditore, lui dice che è un'altra cosa. No, la nutria è proprio un animale roditore, considerato la stregua del coniglio, della stessa famiglia del coniglio. Tanto è vero che se lei lo vedo, ha la stessa conformazione del corpo di un coniglio uguale. Ma lei adotterebbe una nutria come ha fatto la signora Brambilla? Non risponda, no, provocatore. Penso di no. Meglio la Brambilla, penso. Meglio la Brambilla della nutria, cioè meglio adottare la... Come si chiama questo signore? Mirko, scusa. Ha mai sentito parlare di carne umana? Adesso non lo... L'hai già detto prima. No, vabbè, l'ho già detto prima, ma lui non mi ha risposto. Io non sono cannibale, non mangio carne umana. Ma perché ve lo dice con disprezzo? Perché dice io non mangio carne umana perché non sono cannibale? Magari qualche migliaio di anni fa qualcuno sulla foresta successe ancora. No. Va bene, ragazzi, guardi. Arrivederci. Ma lei l'hai mai mangiata la carne umana? Io sì, una volta. Ma quando? Bravo. Io ero uno di quelli piloti sopravvissuti. Quelli che sono rimasti dispersi, insomma. Sì. Vabbè, grazie, Lorenzone, grazie. Allora, Totò da Palermo per concludere, vai Totò, veloce. Morto. Totò è morto. No, qua sono. Ma dobbiamo rimandare a lunedì, ciao. Ma che vuoi, non Totò da Palermo, io posso dirottarti qua una bella processione, te la mando sotto casa se vuoi. Don Totò da Palermo, ma che sei impazzito, sì. Che mi minacci? No, ma quale minaccia, anzi, sei un mio picciotto, stai scherzando. Vabbè, ti richiamo lunedì e poi mi racconti tutto lunedì. Paolo, te la sei fatta sotto, no? No. Sicuro? Sicuro. Possiamo andare via? Grazie. No, vai via tu. Abbiamo io chiuso, rimango. Ma io rimango. Sia ben chiaro. Ci sentiamo lunedì 18:30. No, non ci sentiamo. Io stanotte dormo qui. Ma è finita. E voglio una nutria immediatamente da rosicchiare. Ciao. Sei un terrorista radiofonico. È una verità. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Agruscia, meglio Procio che il laziale.